24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero e del tacchino della bersanese. L'ha capita? Farò un master in bersanese. Eccoci qui, buongiorno cari ascoltatori, sono le 6:32 minuti, vi abbiamo lasciato tra tacchini e passerotti e ci ritroviamo con i 10 saggi. È passata la Pasqua, è passata Pasquetta, il governo, fate con calma, arriverà, fate con calma. Cari ascoltatori, eccoci, siamo qui con Miriam Lucchetti in redazione, c'è il nostro Carmelo Lauricella oggi in regia, ci accompagnerà fino alle 9. Se ci siete anche voi, battete un colpo e mandateci un messaggio al 349-238-6666. Si apra il Parlamento, è ufficiale. Ne abbiamo sempre Nicole Minetti, qua che... che offre il caffè a tutti. Correte al Parlamento, abbiamo barman generosi come Santa Claus. Li paghiamo noi e con quello che paghiamo voglio bere tanto da tornare storto come allora, il dottor Auto. Ci sono anche i Two Fingers che ci regalano questa sigla Parlamento. Ebbene, bene, c'è anche Vincino, buongiorno. Buongiorno. Il saggissimo, il saggerrimo Vincino, il saggerrimo. Eccomi qua. Eccoci qua. Direttore, condirettore del male. Con noi c'è anche Alessandro Giglioli dell'Espresso. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, ti ringrazio per avermi evitato l'epiteto di saggio che in questo periodo è abbastanza diffamatorio. No, attenzione, bisogna subito, oggi ci sono le riflessioni del presidente Napolitano raccolte da Marzio Breda sul Corriere della Sera. La parte più interessante è: non ho mai usato la parola saggi. Sono consulenti. Quindi vedi anche qua la stampa subito ha creato questo mito, i saggi, ma la parola saggi napolitano dice non l'ha mai pronunciata. Allora Vincino, l'ultima volta ci avevamo lasciati qualche giorno fa, governo corazziere titolava. Governo corazziere. Il finto corriere. Siamo vicino, non è che praticamente le officine Breda lavorano in questo momento. Avete capito che fanno i saggi? Oggi Filippo Bubbico, uno dei saggi, intervistato dal secolo XIX, dice ma quanti tempo avrete? Non lo so, ma di che parlerete? Adesso non ci siamo ancora ritrovati, cioè, secondo me sinceramente non si sa. Tu Vincino hai capito che faranno questi? Faranno due sottogruppi, poi dopo designeranno un vincitore l'uno e poi dopo questi due si confronteranno e ne uscirà uno solo, no? Da 10 uno. Che non è questo qua che è Unida, e questo qua, eccolo qua. Che non è lui il premier, però non è che questa gara porta al vincitore. È un talent show, praticamente. È un talent show. Sì, ma non è che... Ma tu l'hai capito perché non ci sono donne? Se entra una donna qua esco io. Anche questo Napolitano nelle riflessioni raccolte del Corriere ha detto anche sta cosa delle donne. Io ho solo raccolto i presidenti delle commissioni costituite alla Camera e al Senato e mi dispiace non c'erano donne e che dovevo fare? Quindi accuse assurde e ridicole, dice Napolitano sulla questione delle donne. Giglioli, tu hai capito i 10 saggi, la mossa del presidente? Perché c'è una norma della Costituzione che gli ha imposto di scegliere i presidenti di quelle commissioni, cioè, ha fatto tutto da solo, non è che c'era una regola per cui doveva scegliere. Sì, ma un'altra delle scuse, sì, per le baccate. Però così siccome questa commissione è informale, lo ha detto lui stesso, esatto. No? Ieri, il giorno di Pasquetta. E non c'era nessuna regola che imponeva la scelta delle persone. No, però così lo accusavano di fare un governo ombra, invece lui dice io ho preso quelli i saggi non l'ha detto, delle istituzioni presenti in Parlamento. Ma guarda, non so, Alessandro, se io non sono di quelli che credono al golpe, per carità, io sono convinto che Napolitano faccia tutto nel tentativo disperato di porre una pezza a una situazione disperata, però questo organo non è previsto dalla Costituzione, non è previsto dalla prassi, se l'è inventato da solo, è un organo che non ha nessuna rappresentatività popolare. Guarda, c'è un articolo di Ainis Agnes, l'idolo di Vincino. Sentiamo. Che non è tra i saggi, questa è una cosa non che è assurda. Che non è tra i saggi. Di Michele Agnes del 7 marzo, quindi molto prima che nascessero i saggi, in cui dice: se il governo Monti viene prorogato, è quasi un golpe. Io non credo che sia un golpe, però non è una bella situazione. Ho capito, ma cioè, scusa Vincino, ma è terribile insomma questo, cioè era diventato il governo più disastrato d'Italia, era diventato negli ultimi giorni, no, è una cosa, guarda, ho capito, ma chi lo fa il governo? Cioè Napolitano si è trovato in una situazione, sempre dalle riflessioni raccolte di Marzio Breda, dice: ma hanno lasciato da solo i partiti, cioè che faceva? Chi è che mette il Premier qua? 50, ancora 30, 20 milioni di italiani da dargli in incarico e vai a cercartelo, no? Cioè, si chiamava Agnes e lo mandava alle camere. Agnes, quello ce la faceva. Eccolo lì, Agnes. Agnes, il famoso titolo del Corriere. Chiamava Giglioli, era perfetto. Lauro, perfetto. Io con governo Lauro avrei fatto tutto. Sta di fatto che sempre lo stesso Napolitano. Oggi il Corriere dice: dopo 7 anni finisco il mio mandato in modo surreale, oggetto di assurdi sospetti e dietrologie incomprensibili tra il geniale e il demente. Oh, Napolitano, guarda, si sta togliendo dei sassoloni. Vincino è arrabbiato. Ma certo che è arrabbiato. Lui guarda la storia e questo finale così era proprio l'unica cosa che non aveva previsto. Ma io però non ho ancora capito chi sarà presidente del Consiglio. Adesso la novità, secondo Bersani, è questa: la precedenza adesso è la rielezione, cioè l'elezione del Quirinale. E quindi tra 15 giorni, e quindi rimarremo senza governo. Cioè, senza governo. C'è Monti, ma io non lo so. L'avevamo detto mesi fa: tanto vale non andare a votare. A sto punto, Giglioli, bastava non andare a votare. Cioè, ci tenevamo quello che abbiamo. Vedi che dici la stessa roba che dico io, la dici molto più recente. Siamo in una situazione di sospensione, non di fine, di sospensione, di limbo della democrazia. Sì, di limbo, ma della la situazione è che se in ragazzi, qua su tutti i poteri che ci sono, tutti i poteri che ci sono in questo momento, non ce n'è uno che sia rappresentativo dei cittadini. Cioè, il Presidente della Repubblica è stato eletto 3 legislature fa, quando non esisteva il PD, non esisteva il PDL, non esisteva Scelta Civica, non esisteva il Movimento 5 Stelle. Questo organo qua è stato cooptato dal Presidente della Repubblica. Il governo Monti rappresenta sì e no l'8%, il 9% degli italiani. Non parliamo della BCE, non parliamo del Fondo Monetario, non parliamo dei poteri dell'Unione Europea. Non c'è un solo potere che regge l'Italia adesso che è rappresentativo. Ma detto questo, Giglio, ottima. Per Vincino ottima, nessuno che fa danni. Per noi vecchi anarchici la mancanza del governo, esatto. Rappresenta proprio, che freddo. Ho capito, aria però, pulita. Giglioli, che faceva Napolitano in alternativa? Cioè, chi metteva a premere? Io guarda, sono convinto che, te l'ho detto fin dall'inizio, che Napolitano non sia animato da desideri di potere. Anche perché tra 3 settimane è a casa, esatto. Ma la situazione che si è andata a creare, di cui Napolitano è uno, poraccio, sono con te, è uno dei componenti, è una situazione paradossale, assurda, in cui non c'è un potere che gestisce le nostre vite, che è rappresentato dai cittadini. Intanto, vabbè, a questo punto, visto che rifacciamo il Toto Quirinale, perché Vincino ha detto già Michele Agnes qualche tempo fa, però detto pure Jaskawroski, no, che era uno, se lo volevano moderare, no, a dire la verità, Vincino, avevi detto Veltroni di recente. Veltroni, ma no. Allora, oggi Veltroni era bellissimo. Era, perché non è detto mica che come il sindaco era 100 volte meglio di questo che c'era, che è una tragedia proprio totale. Chi? Alemanno? Alemanno, madonna mia, circondato com'è da tutti questi qua, Mancini con quella, madonna mia. Adesso, oggi si è svegliato contro Alemanno, Vincino. No, ma io lo vedo che ha inaugurato la più grande, la moschea di culto buddista, che poi come si chiama, non lo so esattamente, d'Europa, no? Ci saranno tanti buddisti. Infatti a Roma c'è questo problema, che avendo il Vaticano deve fare sempre la moschea più grande, la cosa più grande, qualsiasi cosa sia deve farla sempre enorme, no? In campagna elettorale poi li fa proprio per i 7.000 o 3.000 cinesi. Ma guarda, Vincino, non mi tocchi i buddisti, perché la moglie è buddista. No, ma io gli voglio bene ai buddisti. No, non lo so, è partito stamattina contro i buddisti. Guarda, io ho a casa mia pure l'altarino cioè, i buddisti vengono qua a pregare. Sono anche stato una volta a accompagnare mia moglie. Vengo a pregare da te io. È bellissimo. È uno dei parti vabbè, ma eravamo al Toto Quirinale, oggi ci sono i seguenti. No, ma toccato i buddisti. No, ma hai ragione, infatti. Ci sono tutti questi nomi. Amato, Prodi, Bersani vuole Prodi, Vincino, Bersani Mai. Vuole Prodi, già provati tutti e due, Rodotà, Zagrebelsky, Marini, Grasso, ci sono tutti questi nomi, ma a un certo punto ne spunta uno, attenzione, uno temuto dal Popolo della Libertà. Questa non è una barzelletta. Ilda Boccassini, Vincino, ma te la vedi Ilda Boccassini al Quirinale? Questi nomi che hai detto forse è la meno peggio. Ma dai, il da Boccassini è bella, è rossa, è come dire, non... Giglioli, se succede Ilda Boccassini, entriamo in un film di fantascienza, cioè Berlusconi cosa fa? Ilda Boccassini al Quirinale, te la vedi? Vabbè, ma tu vuoi farmi sognare? Cioè, no, vabbè, ma come sognare? Ma dai! No, vuoi farmi sognare per vedere lì, io immagino la faccia di Berlusconi. Ah beh, sì, sarebbe una cosa, cioè, voglio dire... Basterebbe anche solo dar la notizia, poi non è vero, ma giusto per vedere la faccia di Berlusconi. Sì, forse si è sparsa ieri il primo aprile, non lo so, la notizia, sta di fatto che è sui giornali oggi, non è un pesce d'aprile. Ilda Boccassini è temuta da Berlusconi come possibile... Come possibile è? Detto questo, allora, Bubbico ha detto i tempi non si sa. Mario Mauro, uno dei saggi a Repubblica, i tempi, nostro Signore in una settimana ha fatto molto. Ecco, questo ha detto Vincino. Era nostro Signore. Lascio a Vincino un commento sintetico e stringato su questa, sul saggio Mario Mauro. Ma lui in una settimana, pure lui ha fatto tantissimo, pure là, in una settimana da parlamentare europeo del PDL è diventato parlamentare italiano del... No, è bravo pure Mauro. Sì, è vero, lui sì, era del PDL, adesso è passato a Scelta Civica. Per 10 anni era proprio uno di quelli là... Sì. Parlava bene, ma però era di quelli precisi. Sì, è vero, in Europarlamento. Oggi Vincino li ha anche disegnati, 10 saggi, sul... eccola qua la prima del foglio, questi sono tutti congelati. Tutti, perché ha questi frigoriferi enormi, pazzeschi, grandissimi, dove ci sono cose proprio pure sino dai tempi di Umberto. Ma chi ce li ha, Napolitano, i frigoriferi enormi? Enormi proprio, grandissimi. Dove congela, chi congela? Congela tutto. Bersani, Monti. C'era mezzo governo, ma poi c'erano cose precedenti, lui mette da parte e congela e va. Ma a proposito di congelare, ma scusate, io un'altra cosa non ho capito, non ho capito tante cose di questi ultimi giorni, ma Pierluigi Bersani, è perché sempre il saggio Bubbico dice è perfettamente in campo. Ma in campo di che? Cioè io non capisco più niente di quello che sta succedendo in Italia. Quello dei pulcini, lui cerca i pulcini nel parco, praticamente ha messo là un grillino, i pulcini per lui sono i grillini, capite? Acchiappa, i pulcini. Fino a quando arrivare a 20 i pulcini in tasca e dice eccoli qua, nome e cognome. Arriverà in questa serata. Giglioli è in campo Bersani, cioè chi sarà il presidente del Consiglio? Ti giuro non ci dormo la notte, non ci dormo. Coraggio, è un dead man walking, dai, sarà in campo, ma è stato, come dire, elegante Napolitano che non gli ha chiesto formalmente la rinuncia, lui farà tutta una roba di ritualità. Io ho l'impressione che Bersani ormai sia drammaticamente fuori. Guarda, Bersani 3 settimane fa aveva detto non parliamo assolutamente, neanche 2 settimane fa, poco prima che lo impallinassero. Non parliamo assolutamente del Presidente della Repubblica, ne parleremo quando ci arriveranno i consiglieri regionali, i delegati regionali, adesso bisogna fare una... Non c'è, sono due cose completamente diverse, non c'entrano niente. Adesso dice il contrario, è in una totale stato confusionale. E che lì dovrebbero fidarsi di Bersani, sanno bene a non fidarsi. Chi è che dovrebbe fidarsi di Bersani? No, i grilli dovrebbero fidarsi di Bersani, che ogni settimana a seconda della persona cambia, e giustamente hanno ragione loro. E comunque insomma in uno stato confusionale, dice Giglioli. 24 mattino. Sì, buongiorno Alessandro, io mi sono rotto i coglioni di sentir dire che paghiamo gli ultimi 20 anni, perché gli inciuci li abbiamo avuti solo negli ultimi 20 anni, prima del 92 non esistevano gli inciuci, e paghiamo gli ultimi 60 anni solo che abbiamo avuto il boom, tutti quanti andava bene andare in giro con Timberland e Moncler, e allora il problema arriva negli ultimi 20 anni, sono nella testa degli italiani da riformare, Milan. cittadini. Ce n'era un altro che chiamava tutti i cittadini e se stesso cittadino. Si chiamava Robespierre. Buongiorno, sono Batman. Sono stufo di sentire chiamare con mio nome quel truffatore di Fiorito. Ci ho impiegato 70 anni della mia vita per renderlo un nome onorato, arriva un cialtrone di questo genere e mi butta nel fango. Comincio a pensare che ho fatto il mio tempo, qua ci vuole l'incredibile Hulk. Deve fracassare tutti, non ne possiamo più. Milan, non so se questo me lo mandi. Io ho pensato che se li mettiamo un peperoncino nel fondo schiena di Bersani recupera un po' di tono. Un peperoncino nel buco, quello di Calabria però, quello di Calabria che vedi che mai salta come un saltamartino. Pim plum, pim plum. Berlusconi vuole essere presidente, pronta alla guerra pur di esserlo, tutto per la patria certamente. Bersani l'odia e non consente, l'amaro calice non vuol berlo, preferisce il governo assente. Grillo predica di crescita felice, tutti ci vuole a torso mulo, mangiar pane e una lice, tutti al fine andremo a vaffanculo. Vabbè, insomma, con la poesia, Vincino, con la poesia abbiamo concluso la soluzione del peperoncino, effettivamente, di Calabria, però di Calabria. Quello... Però una cosa, scusa, sì. Oltre Bersani, un altro, qualsiasi, sì. Non poteva provarci. Ma chi? Bersani dice, uscite 20 del PDL, mi fate andare avanti e poi dopo vediamo. Renzi, è il momento di Renzi, Vincino. Renzi non lo voglio dire perché l'ha fatto già. Ma Renzi non voleva. Mi è piaciuto tanto, veramente. Vabbè, intanto due notizie. La prima è questa. Allora, il presidente cipriota Anastasiades, questo raccontano i giornali oggi, ma lui subito ha detto non è vero, Giglioli è stato accusato di avere trasferito 21 milioni di euro a Londra il giorno prima di quello che hanno fatto poi a Cipro. Hai capito? Se tutto il mondo è paese. Se non fai questo, che cosa fai? Non lo so, Giglioli. Doveva proteggere i suoi cari. Credo che non sia l'unico, però. Che... No, però se fosse vero. Né a Cipro né qui da noi. Ho capito, perché però, noi ci siamo abituati a dire che non c'è bisogno di un governo. Adesso fa figo dire che non c'è bisogno di un governo. Non è che, e vedo che anche Vincino così tira fuori la sua anima anarchica. L'anarchico un governo non ci sarebbe bisogno se vivessimo tutti in una situazione di perfetta armonia, serenità, senza poteri diversi dal governo che fanno i cazzi loro, no? Il famoso pilota automatico di cui parla Draghi. Un governo c'è bisogno se pensiamo ancora che la politica possa, cioè la politica democratica rappresentativa, possa in qualche modo incidere sulle nostre vite. Invece se no, e non è l'anarchia, Vincino, comandano semplicemente degli altri, comandano degli altri. Comandano gli altri. Sì, però se fosse vero, ragazzi, dai, uno che si fa trasferire... automatico, no? La 21 BCE, uno, sì. A proposito di BCE, citato la BCE, allora voi non vi siete... così sui giornali non si sono accorti molto e non hanno dato spazio a quello che ha fatto Mario Draghi. Vincino, sai che Mario Draghi ha chiamato Napolitano 3 giorni fa, no? Sì. E gli ha detto, sempre col tono british... Leva i soldi a Cipro! No, gli ha detto sempre col tono british, questo dalla ricostruzione dei giornali, che i politici vivono in uno state of denial, capito Vincino? State of uno stato di negazione, te la traduco? Se ne fottono, questo ha detto Mario Draghi ai dei politici, vivono in questo stato di negazione, cioè se ne fottono dei problemi reali. In questa situazione in cui, per esempio, lo riferiva riguardo alla cosiddetta questione dei debiti alle imprese, no? Quelli che devono prendere tutti i miliardi, cioè che se ne fottono, cioè i politici vivono in questo stato così di negazione, ma sì, e lo stesso Derita sul Corriere della Sera dicono sì. Lui che i politici non li conosce, vivono in questa nuvola della casta in cui sembra che non, i problemi non si affrontano, si parla in uno stato perenne come se fosse in una puntata di Ballarò continuamente. Posso dire una roba io su questo? Sì. No, perché io per motivi professionali, ma anche no, ho avuto la fortuna o sfortuna di frequentare un po' i palazzi della politica, è vero. Cioè, se tu vedi, se tu passi, tu Alessandro sei a Milano, non so vicino se sta a Roma, sì, Milano, in quale altro luogo del pianeta. Sto a Roma in generale, per ora sono a Palermo, non so. Allora vicino lo saprà anche meglio di me. Comunque è abbastanza vero che dal punto di vista psicologico, se tu frequenti i palazzi, tu vedi che c'è una, hai la percezione fisica di vivere dentro una bolla, in cui tutto il resto. Una bolla divertente, di bei posti, di bei palazzi, di bei bar. Se ne fottono. Sempre così è stato. Ho capito, sarà stato sempre così, però... È vero, non è una novità. Oggi, come dire, da sparire questa immagine, assolutamente... È così, però tu vicino che vai alla camera, è vero che di tanto vai alla camera? Sì, mi piace molto. Quell'aria là proprio che sta... quell'aria della bolla, no? Stare dentro la bolla, ci sono anche dei quadri molto belli, queste colonne alte, e dentro questi deficienti che cammino, più chiacchiericchiano tra di loro. No, come deficienti, ma chi sono? La maggior parte, il 97,3%, no? Poi, insomma, quelli giovani con il computer sulle spalle che sono i grillini, e quelli vecchi invece che ci abbattono lentamente... Come al mare, no? Quando senti quel rumore insopportabile, le ciabatte trascinate. Esattamente. No? Esatto. Sono in disgrazia e più non c'è nessuno intorno a loro. No? Si vede, dai. Vabbè, dai, fatemi il toto nome, ditemi qualcosa, datemi una prospettiva. Non ho capito niente di quello che sta succedendo. Datemi una prospettiva. Ho colto, amato a destra e a sinistra. No, aspetta, non ho capito niente ancora. Giglioli cosa dice? Chi farà il nuovo presidente del Consiglio? Nessuno fino a che non arriva un nuovo Presidente della Repubblica, è chiaro che ci sarà tra 10 giorni, 15 giorni. Dopo dipende da chi elegge lo Presidente della Repubblica. Vabbè, adesso... ma allora... non è che voglio tirarmi indietro, però oggettivamente, scusa, il casino è sovrano. Io credo che nel prossimo mese, nei prossimi 30 giorni, il Presidente, forse anche nei prossimi 40, almeno. Non ci sarà. Sarà Monti. Vabbè, allora guardate. Secondo me ci potrà essere invece, perché chi? Allora, nei tempi antichi, cioè, non andava bene Leone, prendevano Fanfani, non andava bene Fanfani, prendevano e Leone, quindi chi? Avevano pensato di mettere un altro della loro parte, noi dobbiamo provare a questo qua. Niente, non me lo... Ascolta loro, D'Alema, Veltroni, quelli in frigorifero ne hanno tanti, ma anche fuori dal frigorifero ne hanno. Chi lo sa, non si sa niente, vi lascio con Napolitano fatto da Crozza, va. Grazie. Cosa resterà dei miei 7 anni, io che stavo a casa come garanzia. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, siamo pronti a leggere i giornali, appunto alle 7:21 minuti. Cari ascoltatori, allora siete rientrati, Pasqua, Pasquetta, siete andati via, siete stati qui... Siete pronti a tornare a lavorare? Avete capito cosa è successo nel frattempo con questa vicenda dei 10 saggi che, per la verità, vedremo Giorgio Napolitano sul Corriere della Sera oggi? Il Corriere della Sera che ne raccoglie le riflessioni, ha detto: io la parola saggi non l'ho mai usata, sono consulenti, ma ormai sono passati così, sulla stampa sono definiti i 10 saggi. Che dovranno fare? Perché non c'è un governo nuovo e c'è ancora il governo Monti? E cercheremo di spiegarlo attraverso la lettura dei giornali. Vi ricordo che oggi avremo ospiti alle 8:15 Giuliano Ferrara, direttore del Foglio, e Paolo Flores d'Arcais, direttore di Micromega. Si confronteranno su quella che è una situazione politica di stallo totale, di incertezza, non si capisce granché. Intanto andiamo appunto a sfogliare i quotidiani in edicola. Questo martedì 2 aprile, i titoli intanto, il Sole 24 Ore apre sul rischio euro, lancia la corsa ai bond USA, questo è il titolo di prima pagina. La situazione politica invece in tanti altri quotidiani. I giorni amari di Napolitano, così titola il Corriere della Sera, che oggi raccoglie le riflessioni del capo dello Stato, sospetti assurdi su di me. Non è un'intervista, ma sono tante parole virgolettate di Marzio Breda, che evidentemente ha raccolto gli umori del Quirinale. Repubblica, saggi, il PDL sfida il Quirinale. La Stampa, saggi, l'altolà dei partiti. Il Messaggero, il Colle difende i saggi, gelo PDL. Come vedete, Napolitano che dice io non ho mai usato la parola saggi, ormai sono definiti così dappertutto. Il Fatto Quotidiano, anche Napolitano scarica i 10 saggi dello scandalo. Il Giornale, occhio le grandi manovre, ci rifilano Prodi. L'Unità, prima il presidente, poi il governo, l'inversione fa infuriare il Popolo della Libertà. Il Manifesto gioca sulla parola cul-de-sac a mettere col-de-sac, il colle, il Quirinale. Per il secolo XIX il titolo di prima pagina è 10 piccoli saggi. Libero invece, prospettiva Cipro, occhio al portafoglio. Io però voglio partire dal titolo di prima pagina di Avvenire, perché è la notizia che trovate sviluppata su tutti i giornali, è una notizia importante, anche se viene dall'India, dunque distante da noi, ma il titolo di prima pagina di Avvenire è questo: l'anticancro povero non si ferma. Cosa è successo in India? Come raccontano tutti i giornali, in India è stata sconfitta da una sentenza della Corte Suprema indiana la Novartis, gigante dei farmaci con sede in Svizzera, per la produzione e il brevetto del Glivec, un medicinale anticancro che è stato copiato dalle aziende farmaceutiche indiane, per la quale ovviamente Novartis, per difenderne il brevetto, è andato in causa, ma ha perso. Risultato, questo almeno raccontano i titoli, per esempio Repubblica dedica 2 pagine a questa notizia: India sconfitta Big Pharma, via libera dei giudici all'anticancro low cost, una storica sentenza contro la Svizzera Novartis, come racconta Raimondo Boldrini a pagina 14 di Repubblica. Quando racconta la Corte Suprema indiana ha respinto il ricorso presentato da Novartis, che rivendicava il brevetto sul Glivec, questo medicinale anticancro copiato dalle aziende farmaceutiche indiane e venduto a un prezzo molto inferiore. Le leggi indiane prevedono che la durata del brevetto sia limitata a 20 anni. L'azienda svizzera aveva già presentato nel 2006 una versione rinnovata del farmaco in modo da poter sfruttare un altro ventennio di protezione, e il motivo della sentenza è soprattutto, come ha spiegato i giudici, umanitario: permettere cioè l'accesso a un farmaco salvavita per casi di cancro curabili potenzialmente a decine di milioni di indiani che non potrebbero permettersi un costo della cura così alto dovessero prendere il farmaco brevettato. C'è anche un'intervista all'attivista Vandana Shiva, intervistata Giampaolo Cadalanu, che dice sempre su Repubblica: una lezione per il mondo, perché il diritto alla salute va difeso. Ma certo, la notizia molto importante che pone il problema a livello mondiale della importanza della tutela dei brevetti delle multinazionali, la Novartis che ora già minaccia: così non potremo più fare ricerca, perché noi se siamo diciamo protetti con il brevetto della vendita dei nostri farmaci possiamo continuamente fare ricerca e investire molto. La Stampa titola pagina 12: India, via libera ai farmaci low cost contro il cancro. E così anche Avvenire, che titola in prima pagina con questa notizia, poi sviluppa con Stefano Vecchia all'interno, pagina 16, la farmacia dei poveri ha sconfitto Big Pharma. Ecco, tutti la pongono così, con la Svizzera Novartis che perde la battaglia contro le aziende indiane. Libero, l'utilizzo del brevetto di un medicinale low cost anticancro. Anche per il Manifesto, una sentenza per la salute di tutti. Questo è il titolo che trovate a pagina 6. Il farmaco salvavita costava troppo da parte della Novartis e così il governo di New Delhi non ha rispettato il brevetto. Beh, una sentenza certo che fa discutere, che riguarda però la salute certamente di milioni di indiani in questo caso. Venendo all'Italia, prima di approcciare la questione della politica, 2 notizie che trovate, di quelle che vi faccio tenere subito le mani sul volante, ben strette, appena tornati dalle vacanze. Prima la trovate sul Fatto Quotidiano, un bel appalto, un po' strano, almeno nei costi, racconta il Fatto Quotidiano, e che riguarda la provincia di Milano. L'articolo trovate a pagina 10 a firma Luca De Carolis. Sedie e banchi a peso d'oro paga la provincia di Milano. C'è un'interrogazione del Partito Democratico per un appalto. Può costare secondo voi un armadio di 10 metri alto 2,70 metri 22.000 euro? Beh, certo, sì, può costare, evidentemente, se intarsiato in oro o non lo so. Oppure scrivanie da 800 euro ciascuna. Le sedie, normalissime seggiole per alunni di normalissimi corsi. Quanto potrà costare una sedia? Carmelo, lo guardo là, che mi guarda. Quanto potrà costare? Fa segno 3. Cosa vuol dire 30 euro? 30 euro vuol dire una sedia? 300 euro dice una sedia normale per gli alunni, 421 euro ogni sedia. Ecco, adesso fa il gesto, minchia. E ovviamente è più o meno così. Cioè, questo è successo alla provincia di Milano, dove c'è un'interrogazione del PD su due bandi da 400.000 euro per acquisto di armadi a 22.000 euro, seggiole appunto per alunni da 421 euro l'una, scrivanie da 800 euro. Molti oggetti sul catalogo costano la metà e questo fanno sapere al Partito Democratico. E invece due bandi dell'AFOL, l'agenzia per la formazione della provincia di Milano per l'arredo di classe e uffici, sono finiti nell'occhio del ciclone e nelle polemiche del Partito Democratico nei confronti della provincia di Milano guidata dal Popolo della Libertà. Poi l'altro articolo che vi fa stare mani sul volante, vi accenno solo, Sergio Rizzo sul Corriere della Sera. Ricordate Laura Boldrini, presidente della Camera, che come prima cosa ha detto: ora cercheremo anche in accordo con i sindacati di tagliare gli stipendi dei dipendenti di Camera e, per quel che riguarda Pietro Grasso, del Senato, perché è lì che si annida qualcosa, io l'ho detto da sempre. E i giornali l'hanno scritto: la vera casta, scatti inenarrabili, progressioni professionali ed economiche per i dipendenti di Camera e Senato che non avvengono neanche su Venere e Plutone rispetto alle aziende normali. Nel 2012, fa sapere Sergio Rizzo a pagina 9, la Camera ha speso 238 milioni per gli stipendi e 216 milioni per le pensioni. Volete un'altra cifra? È vero, nel 2013 per la prima volta nella storia la Camera ha chiesto meno soldi al Tesoro, si è scesi a 943 milioni, finalmente direte, 943 milioni, quasi un miliardo per il bilancio della Camera. Certo, ma guardate in Europa, 576 milioni al Bundestag, la metà, 498 milioni alla House of Commons, quindi in Gran Bretagna, 473 milioni all'Assemblée Nationale francese. E perché in Italia costano il doppio? Sindacati sul piede di guerra, fa sapere Sergio Rizzo, le nove sigle sindacali per i dipendenti della Camera, nove sigle sindacali, con le quali dovrà avere a che fare Laura Boldrini. L'articolo lo trovate a pagina 9, taglio ai costi delle Camere, si gioca tutto sui dipendenti, i sindacati già preoccupati dopo il richiamo della Boldrini. È bastato dire vedremo in accordo con i sindacati e le nove sigle hanno passato Pasqua e Pasquetta in subbuglio. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci qui. Allora, i dieci saggi. I dieci saggi, questo è il tema che trovate più sviluppato sui giornali. Che cosa faranno i dieci saggi che si riuniranno oggi? Verranno riuniti alle 11, si troveranno al Quirinale per incontrare il capo dello Stato. Ieri Giorgio Napolitano, che ha dovuto chiarire quelli che sono i limiti temporali dei dieci saggi. Per la verità questa parola saggi, che è diffusa ovunque, tra poco scopriremo dal Corriere della Sera, Giorgio Napolitano non l'ha mai utilizzata. Consulenti, questo sarebbe il vero termine utilizzato dal capo dello Stato. Certo, la situazione è che dopo 24 ore in cui tutti hanno applaudito la decisione di Napolitano, ora sono iniziate le prime critiche molto dure, tanto che scrive Federico Geremicca sulla Stampa pagina 3, Napolitano replica i sospetti, non sto perdendo tempo. Ieri ha dovuto fare una nota nel giorno di Pasquetta appunto per parlare di quelli che sono i saggi diventati subito sotto tiro, come titola pagina 6 Il Sole 24 Ore. Emilia Patta racconta la missione dei 10 saggi nominata sabato, che prende il via stamattina, assolutamente informale, puramente ricognitiva e a ovvi limiti temporali. Così ha dovuto precisare ieri Giorgio Napolitano, dopo il fuoco scatenatosi sulla scelta di nominare i saggi per trovare una condivisione tra i partiti sulle riforme istituzionali e l'economia. Ed ecco che allora il presidente Napolitano ha precisato i confini della sua iniziativa. Ora dobbiamo andare sul Corriere della Sera, dove non c'è un'intervista, però pagina 2 e 3 Marzio Breda raccoglie quelle che sono le riflessioni del presidente. È un modo come un altro per dire che sono virgolettati attribuiti a Giorgio Napolitano, e ci sono tanti spunti di riflessione interessanti. Sentite Marzio Breda come inizia l'articolo. Ha detto Napolitano: dopo 7 anni sto finendo il mandato in modo surreale, trovandomi oggetto di assurde reazioni di sospetto e dietrologie incomprensibili tra il geniale e il demente. Giorgio Napolitano riflette sulla sua amarissima Pasqua, al momento peggiore del settennato, nel quale si è scoperto bersaglio di una marea montante di polemiche. La sua idea, quella cioè dei saggi, è stata travisata e criticata in modo ingiusto e insolente. Giornali ed esponenti di partito hanno parlato di commissariamento delle Camere, golpe, ritorno alla monarchia, oligarchia alla corte di Re Giorgio, anomalia, presidenzialismo di fatto, scelta incostituzionale. Insomma, un bombardamento per il quale il capo dello Stato oggi recrimina: sono stato lasciato solo dai partiti. Quel giorno, ecco la sua ricostruzione, scrive il Corriere, ha pregato 2 gruppi di persone diverse tra loro, ma con alcune caratteristiche di competenza o istituzionali, di fare una specie di quadro sinottico di problemi da affrontare. Ve la giro così, come l'ho letta anch'io. L'idea di costruire ponti, anche la polemica sull'assenza di donne, si sfiora al ridicolo, dice Napolitano, quasi che lui avesse deciso questa cosa. Io ho solo scelto i presidenti delle commissioni speciali costituite alla Camera e al Senato. E certo, mi dispiace che in quelle commissioni non vi sia una donna, ma non potevo farci niente. A questo punto, insomma, queste sono alcune delle riflessioni raccolte da Napolitano che riguarda le dimissioni. Quanto ci si è arrovellato sulle dimissioni? Perché non le ha date? Ecco la risposta sempre dal Corriere della Sera, benché già riassunta dalla nota del Quirinale. Ha deciso di restare al suo posto per garantire un elemento di continuità, così come un elemento di certezza è per lui rappresentato dall'operatività del governo. Se si fosse limitato alle risultanze degli ultimi colloqui che aveva avuto, avrebbe dovuto riconoscere: sono conclusioni che fanno disperare della possibilità di governare questo paese. E beh, insomma, queste alcune delle riflessioni Napolitano, che ancora, scrive il Corriere, avrebbe detto questo: se oggi qualcuno proponesse di affidare il mandato a un non politico, si scatenerebbe l'ira di Dio, tutti farebbero un fuoco di sbarramento perché ripetono che il governo deve essere politico e basta, ed è su questi diktat che ogni chance si è impantanata. E ancora la decisione dei consulenti, la parola saggi, dice Napolitano, non l'ho mai pronunciata. E quindi consulenti sarebbe la parola giusta. Dal 15 aprile saranno convocate le Camere, che, se saranno pronti i rappresentanti dei consiglieri regionali, tra il 16 e il 18 cominceranno a votare per il nuovo Presidente della Repubblica. Oltre non potrà andare. Insomma, in queste riflessioni di Napolitano si coglie un presidente che ha passato una Pasqua amarissima, attaccato da alcuni partiti. Tra questi partiti il più duro è stato il Popolo della Libertà, che in 24 ore effettivamente ha cambiato un po' linea dopo aver detto una moderata soddisfazione. Ieri Alfano, segretario del Popolo della Libertà, ha detto: la casa brucia. E il timore nei retroscena della politica di Berlusconi è quello di perdere del tempo. O si fa un governo di larghe intese, oppure bisogna andare a rivotare. Questa è la linea del Popolo della Libertà. Nel retroscena di Repubblica firma Carmelo Lo Papa e Umberto Rosso a pagina 3 Berlusconi è pronto a rovesciare il tavolo. timori e spettri che per ora non trovano riscontro nei fatti, il leader dei 5 Stelle continua a bombardare Basta, ma il timore, scrive Repubblica, è che per Berlusconi ci sia una sorta di accordo di perdere tempo in modo da far trovare a Bersani e a Grillo una intesa in qualche modo e per portare al Quirinale o Zagrebelsky o Stefano Rodotà, se non addirittura Romano Prodi, e questo è il terrore politico secondo Berlusconi. Anche per La Stampa, Ugo Magri: Berlusconi teme l'inganno e pensa alle urne, si agita lo spauracchio di un governo tecnico controllato dal PD e da Grillo. E Alfano dice: la casa brucia, non bisogna fare altri rinvii. E effettivamente una lettura politica di questo tipo si può fare se è vero come è vero che l'Unità invece difende questa scelta dei saggi. Infatti il titolo di prima pagina è questo: le inutili polemiche sui 10 saggi dell'Unità. Né saggi, come li chiamano tutti, né badanti della democrazia, come li definisce Grillo, più semplicemente 10 esperti individuati in base alle loro specifiche competenze per un'attività informale ricognitiva tra le forze politiche. Questo è quello che precisa la nota del Colle, e li difende l'Unità con un articolo a pagina 2, i saggi al lavoro, compiti limitati. Cioè, cosa sta succedendo, cari italiani? Sembrava che la formazione del governo fosse la cosa prioritaria, e invece, visto che il governo non si è fatto per il momento e il governo c'è, continua Mario Monti. Sono stati nominati questi 10 saggi che, con tempi limitati, presumibilmente fino al 15 aprile, poi il mandato di Napolitano scadrà, dovranno trovare una qualche soluzione, e quindi in qualche modo, come scrive l'Unità in prima pagina, ora si è ribaltata la questione. Cioè la priorità non diventa più la formazione del governo, visto che c'è Monti, la priorità diventa il nuovo inquilino al Quirinale. Ed ecco allora che questa, per esempio, la linea Bersani, si è ribaltata la questione, priorità alla scelta del Quirinale. Ed eccolo allora il fiorire, le totonomine, il Sole 24 Ore con Lina Palmerini fa i 3 scenari e i 15 nomi per la corsa al Quirinale, tutti gli scenari possibili, se c'è un'intesa tra il PD e il PDL, se c'è un'intesa allora sarebbero favoriti Gianni Letta, Marcello Pera, Anna Maria Cancellieri, Paola Severino, Giuliano Amato, Massimo D'Alema, Luciano Violante, Franco Marini, Emma Bonino. Se invece ci fosse una sorta di intesa PD Movimento 5 Stelle, i favoriti sarebbero Romano Prodi, Pietro Grasso, Zagrebelsky, Onida, Rodotà e Emma Bonino. Con un'intesa invece tra il PD e Scelta Civica torna favorito Mario Monti. Insomma, un profluvio di nomi. Il Giornale titola: il PD e Grillo vogliono rifilarci Prodi. Ognuno teme in queste schermaglie, insomma, in questi balletti della politica in cui si parla, per carità, in una situazione di stallo non è facile, non è facile. Io non dico che ci sia la soluzione, molti mi criticano, dicono: e lei che soluzione darebbe? Ma ci mancherebbe, anche il mio lavoro non è dare soluzioni politiche. Noto che continua questo stallo, continuano a parlare e continua questo teatrino della politica, diciamolo francamente, che gli italiani non capiscono fino in fondo, e il dato di fatto è che la situazione non si sblocca. C'è anche l'intervista ad alcuni di questi saggi, Mario Mauro ne fa alcune. Il Fatto Quotidiano mette tutti alla gogna dal punto di vista mediatico. Violante, gli scheletri usciti con 17 anni di ritardo, Marco Travaglio. Giorgetti e la mazzetta incassata in Parlamento, Thomas McKinson. Bubbico e i bachi da seta coi soldi pubblici, Antonio Massari, sempre sul Fatto Quotidiano. Poi ce n'è anche per qualcun altro, forse, a pagina 2, cioè critica questi saggi e i problemi che hanno con la giustizia. Pitruzzella, amico e socio di Schifani. Marco Lillo a pagina 2 del Fatto. Insomma, tutto un gran casino. Filippo Bubbico viene intervistato al Secolo XIX e dice: quali sono gli obiettivi di saggi? Ma non ci siamo ancora consultati col capo dello Stato. Ma quali tempi avete? Non lo so. Mario Mauro, che gli chiedono: quali tempi avrete? E su Repubblica dice: nostro signore in una settimana ha fatto tante cose. Ecco, capite, il clima è questo, un po' del marasma totale. Cioè, avete capito, la situazione è effettivamente un pizzico confusa. Oggi comunque alle 11 i saggi o i consulenti si incontreranno. Perché dico questo? Perché in tutto questo ci sono alcune cose concrete sulle quali gli italiani dicono ma vogliamo fare le azioni concrete. Prima fra tutte, e lo cito perché c'è uno sviluppo in positivo forse, la questione dei debiti della pubblica amministrazione con le imprese che attendono, e la cifra Banca Italia ha detto è arrivata a 90 miliardi dei debiti pregressi. Allora c'è il decreto, tra oggi e domani dovrebbe vedere la luce, Simone Spezia credo se ne occuperà alle ore 9, i debiti della pubblica amministrazione, l'ipotesi di un decreto da 6-7 miliardi, così il Sole 24 Ore titola a pagina 5. Eugenio Bruno e Marco Rogari raccontano di come l'operazione debiti della pubblica amministrazione entri nel vivo con il Parlamento, che oggi darà il via libera alla risoluzione sulla nota del governo che allenta i cordoni della borsa. L'obiettivo è di sbloccare subito 3-4 miliardi e il resto, quindi altri 3 miliardi circa, a giugno. Cito questo perché si collega molto a quello che è stato uno degli argomenti della chiacchierata telefonica che si sono fatti Giorgio Napolitano e Mario Draghi, presidente della BCE, qualche giorno fa, quando all'indomani delle consultazioni Giorgio Napolitano poi ha deciso appunto di nominare questi 10 consulenti, anche per vedere, per dare un segno di stabilità, cioè non dimettermi, per dare un segno di stabilità anche per i mercati che riaprono oggi. Sapete che cosa ha detto Mario Draghi quando ha chiamato Giorgio Napolitano? Ha fatto un accenno allo state of denial, il pericolo di rimozione dei problemi da parte dei partiti italiani. Fissatevi questa frase che può sembrare altisonante, state of denial, cioè c'è questo rischio da parte, dice Mario Draghi, della politica italiana e non solo, dello state of denial, la rimozione dei problemi. Lo traduco per chi non l'ha capito: se ne fottono, questo ha detto in maniera molto più altisonante Mario Draghi, e su questo state of denial oggi il Corriere della Sera infatti va a sentire il presidente del Censis, De Rita. La politica rimuove l'emergenza, De Rita, è incoscienza di casta. Ecco perché arriviamo a tutto questo, perché dopo tutto il balletto, i saggi, il governo, e ripeto, non è una soluzione facile, forse la verità l'ha detta Mario Draghi in maniera British, se ne fottono. Allora, in tutto questo la cronaca è molto cronaca così di basso interesse, di scarso interesse. Voglio far notare due notizie. La prima, che arriva dall'India, come la vicenda del farmaco anticancro. Apro parentesi, tra l'altro un'ascoltatrice, Cristina, mi ha scritto: ma come non ci dai mai buone notizie? Ma più bella notizia che abbiamo dato all'inizio per milioni di indiani che possono accedere alle cure anticancro in maniera low cost, non lo so, anche quando uno dà le buone notizie che faticano a trovarsi effettivamente sui giornali, non viene apprezzato. Comunque, dall'India arriva quest'altra notizia che riguarda invece i Marò. Sapete cosa ha deciso l'India? Di azzerare tutto. Ripartono le indagini, come racconta Umberto Di Giovannangeli, tutti i giornali lo raccontano, ma Umberto Di Giovannangeli in modo molto specifico sull'Unità a pagina 13, si ricomincia da zero e la farsa rischia di trasformarsi in tragedia. Il ministro dell'interno indiano ha affidato a un'agenzia nazionale di investigazioni lo svolgimento di nuove indagini riguardanti l'incidente del 15 febbraio 2012 al largo del Kerala, in cui sono implicati due Marò italiani. Insomma, l'India azzera l'indagine, chiamata in azione l'antiterrorismo, oggi verrà deciso anche il tribunale ad hoc. Insomma, una vicenda, ma sì, abbiamo fatto così, li abbiamo lasciati là, adesso scema l'interesse anche sui giornali e intanto la farsa rischia di trasformarsi in tragedia, come scrive l'Unità. Che dire, è Pasquetta, ieri era Pasquetta, io lo posso capire, quindi sui giornali c'erano anche poche notizie. trovate incredibilmente, mi voglio di vedere, paginate e paginate sulle vacanze a Ischia di Angela Merkel, cancelliere tedesca, soprattutto riguardo a una notizia. Il fatto sconvolgente per la stampa italiana in che ha montato con paginate questo fotoromanzo di una visita che Angela Merkel ha fatto all'ex dipendente dell'hotel dove è andata. Cioè, cosa è successo? Angela Merkel è andata in questo hotel, non ha trovato il maître che trovava sempre, ha chiesto perché non c'è più. Oh, e allora ha preso ed è andata a trovarlo privatamente nella casa dove vive. Guardate la stampa italiana: Merkel a casa del maître pensionato, così titola pagina 13 il Messaggero. Il Corriere, una pagina intera, la sorpresa per il maître sparito, Merkel va a trovarlo a casa sua. Libero, una pagina, balena d'aprile per la Merkel, foto nude sul web, vabbè, ci sono le foto nude, ma poi la cancelliera in ferie a Ischia incontra il suo cameriere di fiducia. Alla fine uno va sul Secolo XIX, dove Paolo Crecchi ne combina un'altra delle sue, cioè in senso positivo, è un grande giornalista di cronaca, e Paolo Crecchi racconta quella che è questa visita di Angela Merkel al maître, che non è licenziato, è tutta una vicenda un po' montata dalla stampa. La favola di Angela e del licenziato. Merkel in vacanza a Ischia e il circo mediatico si scatena. Angela Merkel va in vacanza a Sant'Angelo d'Ischia, scende all'hotel Miramare dove è ospite riverita da 30 anni, non vede il maître Cristoforo Iacono e chiede di lui. Le rispondono che non lavora più lì. Il giorno dopo la cancelliera imbocca un sentiero, è sabato di Pasqua, passa davanti all'abitazione di Iacono in località Serrara Fontana e lo nota affaccendarsi in giardino. Come va? Gli chiede. Benissimo, risponde lui. Posso avere un bicchiere d'acqua? Le faccio anche il caffè. L'aneddoto è tutto qui. Succede però che il circo mediatico intervisti la figlia di Cristoforo, Marianna. Marianna dica che il papà è stato licenziato. Forse si spiega male, più tardi negherà. Forse qualcuno non capisce o fa finta di non capire. Ecco, così la storia cresce, si dilata, diventa emblematica. L'Angela Merkel, cancelliera che va a casa dell'italiano licenziato. E racconta al Secolo, la storia sarebbe stata fantastica, ammettiamolo. La vittima della crisi europea a confronto con quella che da molti è indicata come la prima artefice della crisi stessa, la Germania egoista che fa i conti con i risultati del rigore, cioè i licenziamenti, la disoccupazione, la miseria. E infatti un giornale ha titolato così: Angela Merkel va a trovare un uomo licenziato da lei, no, dal rigore tedesco. Peccato che sia tutto falso. Questo maître dice alla moglie: ma che licenziato, se n'è andato lui, non aveva più voglia di lavorare in quel posto, ora fa un altro lavoro, eccetera. Insomma, Frau Merkel e il maître licenziato, la favola della crisi. Peccato che più o meno sia tutto inventato. Ecco, diciamola così. Che dire? Chiudiamo qua? Sì, chiudiamo la rassegna stampa. Allora vi ricordo che ci saranno con noi Giuliano Ferrara e Paolo Flores d'Arcais dalle 8:15 per cercare di capire questi 10 saggi o consulenti, come li vogliate chiamare. Ci porteranno fuori da questo impasse politico? Sì o no? Ventiquattro mattino, la politica nel tunnel. Eccoci qui allora, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:15. In questo istante Giorgio Napolitano affida le sue riflessioni a Marzio Breda, oggi sul Corriere della Sera. Riflessioni di una Pasqua amarissima, racconta il capo dello Stato. Il peggior momento del settennato di un capo dello Stato che si racconta avvilito per le accuse fatte, per le accuse ricevute di avere fatto una sorta di golpe istituzionale, un golpe presidenzialista con la nomina di queste due commissioni e questi 10 saggi. Parola peraltro, saggi, che dice Napolitano oggi sul Corriere della Sera, non ho mai utilizzato, non ho mai usato, semmai sono consulenti, ma ormai così li abbiamo chiamati saggi e saggi sono ovunque. Napolitano oggi sul Corriere parla di assurde reazioni di sospetto e dietrologie incomprensibili tra il geniale e il demente nei miei confronti, e accusa: i partiti mi hanno lasciato solo. Allora, avete capito che cosa succederà con queste due commissioni? Ne parliamo con persone nel mondo del giornalismo molto influenti. Giuliano Ferrara, direttore del Foglio, che saluto. Buongiorno. Buongiorno. trovato Ferrara. Saluto anche Paolo Flores d'Arcais, direttore di Micromega. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, Giuliano Ferrara, si dice in Italia quando non c'è un problema, come non si sa come affrontare un problema, si fa una bella commissione. È questo il caso oppure Giorgio Napolitano fa bene, tra l'altro, a essere avvilito per le accuse che ha ricevuto di avere fatto una sorta di golpe? Ma insomma, adesso non so, la questione dei sentimenti non è la mia partita. Io vado al sodo. Per che cosa si vota? Per creare maggioranze parlamentari ed eleggere governi. A che servono i governi? Insomma, spesso non servono a granché, in quello Grillo ha ragione, perché fanno solo pasticci. Però insomma, la Costituzione più o meno, il sistema politico, le leggi li prevedono, serve un governo perché un Parlamento sia orientato, comunque sia stimolato, poi c'è un esecutivo, una pubblica amministrazione da guidare, eccetera. Abbiamo votato, c'è un solo governo possibile, quello di larga coalizione. E tutti quelli che hanno preclusioni, salvo Grillo che ha diritto alle sue preclusioni, perché lui vuole aprire le Camere come una scatola di tonno, quindi non c'entra con la politica, è la rivoluzione, diciamo, del web. Ma tutti quelli che hanno delle preclusioni contro un governo di larga coalizione optano per le elezioni subito, e questo è legittimo, ma allora lo dicano, oppure per il niente. E allora Napolitano si è trovato di fronte al niente, al nichilismo di Bersani, che gli diceva lasciami andare alle Camere a cercarmi una maggioranza quale che sia, con i grillini magari per impiccare l'altro partito che ha preso i miei stessi voti, cioè quello di Berlusconi. E quindi fa due commissioni. Secondo me no, secondo me Napolitano non ha fatto due commissioni. Su, andiamo al dunque, se no sembra che stiamo a parlare di che. Napolitano ha detto no a Bersani, questa è la cosa importante. Bersani è il capo non solo del partito al quale apparteneva Napolitano, questo non conterebbe, ma è il capo del partito che è arrivato primo alle elezioni. Non le ha vinte perché non ha una maggioranza, deve coalizzarsi con qualcun altro, però è arrivato primo, ha avuto il premio alla Camera, la Camera ha una maggioranza assoluta, quindi è stato incaricato, ha fatto perdere tempo al Paese, si sapeva come andava a finire, è tornato a Napolitano e ha detto non ho una maggioranza, e Napolitano invece di favorirlo come voleva Rosa, come volevano tutti gli estremisti che vogliono gli sempre, ha detto di no. Ha detto di no. Questo è il fatto vero, lo ha schiaffeggiato. Però il fatto vero politico per lei, Ferrara, è questo, però in questo non c'è una soluzione, non c'è una via d'uscita, cioè ha detto no. Che via d'uscita può dare un presidente che fra 15 giorni scade, diciamo, nel senso che si elegge il successore e fra un mese e mezzo non è più al Quirinale e nel frattempo non ha il potere di sciogliere le Camere, povero Napolitano. Non capisco che soluzione può dare. Le soluzioni che dà un Presidente della Repubblica sono o fare un governo, e Bersani non vuole perché dice che i giovani turchi e il suo mondo e le bindi e tutti i radicaloidi del mondo del PD non glielo consentirebbero mai. O si fa una rivoluzione o si fanno le elezioni. Le elezioni non le può convocare Napolitano, c'è il semestre bianco. E questo quindi certo. È stato l'unica cosa possibile, perde tempo, ecco, infatti lo voglio dire, prendere tempo in attesa che arrivi il successore, e auguri, insomma. Più o meno è questo. Allora, lei lo scrive anche oggi sul Foglio, questa decisione di Napolitano di dire no a Bersani dovrebbe portare all'unica riflessione politica che ci ha anche ribadito, cioè quella dell'idea delle larghe intese, cioè di trovarsi insieme. No, perché pongo già questo quesito a Paolo Flores d'Arcais, che invece in un post che ho trovato sul Fatto ha parlato, Flores d'Arcais mi corregga, di golpismo, al limite del golpismo questa decisione del presidente Napolitano. E perché? Non per le due commissioni in sé, per i nomi scelti che indicano una volontà di inciucio, queste sono le commissioni per l'inciucio, che va all'opposto della richiesta esplicita che è venuta dalle urne. Il voto degli italiani cosa ha detto? Che c'è una schiacciante maggioranza che vuole voltare pagina, si è espressa con un terzo dei voti a Grillo, ma si è espressa anche nel voto al PD. Gli elettori del PD chiaramente hanno bocciato l'inciucio, quindi c'è una schiacciante maggioranza nel paese che vuole voltare pagina radicalmente rispetto a questi 19 anni di regime e di inciucio. Però questa schiacciante maggioranza, sì, no, le chiedo, questa schiacciante maggioranza non è una maggioranza. Questa schiacciante maggioranza è tale anche in Parlamento, ma non riesce a dar vita ad un governo. Non riesce a dar vita ad un governo per i sospetti incrociati del movimento di Grillo verso il PD e del PD nei confronti del movimento di Grillo. La soluzione certamente non può essere tornare alle urne con questa legge. Continuare a votare con questa legge sarebbe criminale, oltre che antidemocratico, perché abbiamo visto che è una legge per cui chi non vince con un terzo dei voti può avere una maggioranza schiacciante alla Camera e può essere paralizzato al Senato. Quindi è una cosa folle dal punto di vista istituzionale ed è una cosa assolutamente antidemocratica, perché dà una maggioranza alla Camera a una minoranza. Quindi bisogna comunque cambiare la legge elettorale. Sì. L'unica soluzione è il doppio turno sul modello dei sindaci, che è la legge che gli italiani hanno apprezzato di più. Nel frattempo però è necessario che intanto le Camere siano attive, lavorino. Sì. Si può benissimo, si deve anzi, lavorare anche in attesa della formazione di un governo. Ma come pare si faccia, cioè, nel frattempo? Però, scusi, non è vero, perché il primo atto perché le Camere funzionino è formare le commissioni. Tra queste commissioni oltretutto ce n'è una di particolare importanza che si chiama Giunta delle Elezioni, che deve convalidare o non convalidare le elezioni dei singoli deputati, e come è noto c'è un ricorso che pende sulla elezione di Berlusconi, che secondo una legge sempre disattesa non è eleggibile. E intanto quindi le Camere devono lavorare. E questo però, scusi, Flores Darcais, scusi un attimo, perché lei ha posto un punto interessante sul quale vorrei subito incrociare con quello che propone Giuliano Ferrara. Cioè, Giuliano Ferrara dice l'unico motivo valido, l'unico argomento politico su cui ragionare è quello del governo delle larghe intese. Lei è uno dei promotori della cosiddetta ineleggibilità di Berlusconi. Su questo punto. E anche di un governo, anch'io ho la mia soluzione per il governo, che è quella di un governo senza i partiti, senza ministri dei partiti, affidato a una personalità che a questo punto non poteva essere Bersani perché è capo di un partito, doveva essere indicato dai vari partiti, anche dal Movimento 5 Stelle, al di fuori dei rappresentanti di partiti. I nomi sono stati fatti tante volte, c'è un da Rodotà, Zagrebelsky, un governo tecnico, Assetti, un altro governo tecnico questo. No, io prima ancora, il giorno dopo le elezioni, dissi qui ci vuole un governo di tecnici non tecnici, nel senso di personalità della società civile orientati all'opposto di quello che era il governo di Monti e in sintonia con il segno che l'elettorato ha voluto dare a questo Parlamento di svolta radicale. Beh, però di 19 anni. No, ma è chiaro. Ma quello lo approfondiamo, il berlusconismo, l'inciucio. Ferrara, il governo dei tecnici non tecnici è una formulazione. Io tenderei a semplificare, con tutto il rispetto per, naturalmente, Flores ha una sua idea delle cose, vuole un rivolgimento politico e morale della nazione, una rigenerazione. Io, diciamo, queste illusioni di gioventù le ho dissipate, e quindi un po' come Califano, diciamo, tutto il resto è noia per me. Io ho un punto fondamentale da segnalare anche a Flores. Sarà stato un grande voto contro l'inciucio, ma il 75% degli italiani ha votato per Monti, per Bersani e per Berlusconi. Punto. Sono tre partiti, uno molto giovane, appena formato sulla scorta dell'esperienza del governo tecnico. L'altro 25% ha votato Grillo dopo una fulminante campagna a colpi di vaffanculo e si è identificato con questa idea di una grande protesta senza, diciamo, sbocco, senza che si intraveda una luce, la luce della politica, delle soluzioni, eccetera. Però rispettabile, nel senso che Grillo è un attore comico, annoiato, con un guru col capello pazzo, che insomma vuole appunto aprire il Parlamento con una scatola di tonno, e quello è un programma che non è compatibile con il governo Rodotà o il governo Zagrebelsky o il governo Bersani. Allora, il 75% degli italiani ha votato un partito tradizionale, il più partito dei partiti, il PD, un partito nuovo formato da Monti e da alcune piccole formazioni centriste, e Berlusconi. Ora, risolvere la situazione politica dichiarando ineleggibile Berlusconi, che è in Parlamento da 20 anni e che è stato 4 volte Presidente del Consiglio, ha presieduto 3 G8 ed è, diciamo, uno dei pochi uomini pubblici italiani che l'elezione se l'è guadagnata, diciamo. Ma mi sembra una cosa, come si può dire, un po' surreale, ecco, un po' curiosa, strana. Perché, non direi che la cosa migliore è, io non è che ho detto bisogna fare la larga coalizione, ho detto o si fa una larga coalizione o si torna alle urne tranquilli, beati. Berlusconi mi pare sia al 32-33% nei sondaggi. Con questa stessa legge elettorale. Alle urne, siate contenti pure voi. Con questa, sì, certo, però con questa stessa legge elettorale. Però Flores, ce lo vuole spiegare questa cosa dell'ineleggibilità? Effettivamente gli italiani dicono, c'è questa legge del, credo, 57, e sulla base della quale Berlusconi sarebbe ineleggibile perché è titolare concessionario di frequenze, diciamo, di responsabile economico di concessionario di frequenze radio televisive. E perché è stato eletto fino adesso? Perché è stata disattesa la legge? Lei mi risponderà. Certo. Mi permetto prima di far osservare a Giuliano Ferrara che in genere si pone dal punto di vista del realismo politico, che la famosa coalizione che lui dice del 75% è la stessa che sosteneva il governo Monti e che è implosa, esplosa, andata in pezzi, ha dimostrato di essere fatta di componenti che assolutamente non possono stare insieme. Quindi se c'è una cosa irrealistica è che si possano mettere insieme le truppe di Monti, quelle di Berlusconi e il PD. Sono 3 cose che assolutamente, in qualche modo, soprattutto il PD e Berlusconi, si ripugnano, nel senso in cui Kant usava questa parola. E quindi è la cosa più irrealistica, mentre un governo con le personalità che ho detto e con una serie di punti che sono comuni al programma di Grillo e al programma del PD come ora viene rielaborato da Bersani, questa possibilità ci sarebbe. Sì, ma un governo ma ha bisogno alla questione però della... prima dell'ineleggibilità ci vuole la fiducia per un governo. Lei è convinto che il PD accetterebbe di dare, dopo aver vinto anche se di poco le elezioni, dare a Rodotà, a Settis un governo, dare la fiducia, votare la fiducia? Io non sono convinto e non sono Nostradamus, ma penso che questa possibilità andrebbe tentata e sono convinto che rispetto al caos in cui siamo e soprattutto a nuove elezioni con questo porcellum che naturalmente riproporrebbe la stessa situazione di stallo, un governo Zagrebelsky, Rodotà, Cordero, Settis, quello che sia, con le migliori personalità del paese per chiudere questi 19 anni potrebbe avere sia l'appoggio del Movimento 5 Stelle che del PD, Parlamento. Tranne quella parte di PD che ha sempre voluto l'inciucio e che farebbe i suoi franchi tiratori. Allora, Flores, veniamo a questa, però non le devo chiedere questo. Veniamoci tra 2 minuti perché l'approfondiamo bene. C'è la pubblicità, 2 minuti esatti. Siamo con Giuliano Ferrara e Paolo Flores d'Arcais. 800 24 0024, se volete intervenire anche gli ascoltatori. Tra 2 minuti ripartiamo da questo punto. Berlusconi è ineleggibile per Flores d'Arcais e per una serie di altre personalità. Devo dire, anche lo stesso Adriano Celentano ha tuonato su Repubblica a dire: ma come, questa è davvero una grande cazzata. Però ne parliamo tra un attimo. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:33 minuti, siamo con Giuliano Ferrara, Paolo Flores d'Arcais, al quale chiedo subito, allora ci spieghi perché secondo lei e secondo questa legge Berlusconi è ineleggibile e perché lei porta avanti questa campagna? Perché la legge è esplicita, dice che chiunque abbia una concessione statale nella discussione in Parlamento si disse superiore al valore di una tabaccheria, in proprio o come amministratore, quindi sia come proprietario, azionista, sia come amministratore, non è eleggibile in Parlamento. Il difetto di questa legge ha due difetti, uno che riguarda solo l'eleggibilità in Parlamento e non le cariche governative, per esempio. Due, che l'applicazione di questa legge non è demandata a una figura terza, cioè a un magistrato, ma al Parlamento stesso. E il Parlamento, sia nel 94 quando era in maggioranza Berlusconi, sia nel 96 quando era in maggioranza l'Ulivo, cioè il centrosinistra, ha calpestato questa legge, perché la legge in sé è chiarissima, sì. L'ha calpestata per motivi squisitamente politici, sai cosa le dico? Capisce anche un bambino. Ora, il fatto che una legge sia stata calpestata per motivi politici e non giuridici per 19 anni non è un buon motivo per continuare a calpestarla, perché per fortuna la situazione politica è cambiata. Oggi nella giunta delle elezioni c'è una maggioranza potenziale per far applicare questa legge, quindi per ripristinare legalità dopo 19 anni di illegalità, perché questa maggioranza c'è perché il Movimento 5 Stelle ha già detto che la vuole applicare e il capogruppo dei senatori PD, Luigi Zanda, ha detto la stessa cosa e ha firmato l'appello di Micromega, e addirittura alla manifestazione di piazza organizzata da Micromega ha regalato 100 copie della Costituzione con cui quella manifestazione si è autofinanziata. Lo ha detto Luigi Zanda, appunto il capogruppo, lo ha detto anche Emilia Vacca, che è un bersaniano molto, molto... Lo ha detto anche Alessandra Moretti, Giuliano Ferrara qui ai nostri microfoni, voterei sì all'ineleggibilità di Berlusconi. Questo potrebbe essere il vero macigno possibile su... Che tipo di larghe intese si può fare quando una parte, minoritaria o maggiorità, non lo so, dell'altro partito, dice, del Partito Democratico, quindi dell'altra parte, dice è ineleggibile Berlusconi? No, se sperate di farmi parlare dell'ineleggibilità di Berlusconi ci riuscirete. Vabbè, però è uno dei temi sul tavolo. Ma no, mi viene da ridere, su, avanti. Poi adesso Flores è parte naturalmente del centro-sinistra, perché è una minoranza intransigente, molto dura, molto forte, eccetera, intelligente, fa una bella rivista, Micromega, organizza un sacco di intellettuali, però insomma, sì, va bene, si è fatto anche dire di sì da un Bersani con l'acquolina in bocca che voleva il voto di Grillo per l'ineleggibilità, però non mi fate ridere con la cosa dell'ineleggibilità. Io poi sono un democratico, penso che in un paese democratico se un uomo è intraprendente mette su una televisione eccetera, dei giornali, sono gli elettori poi a decidere se può fare. Capito, Ferrara, no, però la legge c'è, però la legge c'è, dice Flores, non è che si può o si cambia la legge Ma la legge c'è, ma se è per stare lì al formalismo saranno dei giudici a giudicare i ricorsi. Purtroppo o appunto, no. I parlamentari, tra l'altro la legge riguarda le concessioni non ci sono più, ci sono le autorizzazioni, però non mi fate pensare dell'ineleggibilità perché mi viene da ridere. Vorrei invece chiedere a Flores, che propone questo governo Settis, Cordero, Rodotà, eccetera, sì. Ma almeno proponete un governo Celentano, Saviano, Fazio, che gli ascolti li fanno. Celentano sono quasi mezzo secolo che è al top delle vendite di dischi, con 24.000 basi, la via Gluck. Non sono rendetevi conto di una cosa, sono che Berlusconi ha preso le grandi con la sua figure coalizione, 9 milioni di voti, a me, 9 li ha presi Bersani, le figure dell'Italia televisiva. Colpiti. Scusate, posso finire di parlare visto che non ho interrotto, grazie. Altri 9 li ha presi Berlusconi e altri 3 li ha presi Monti, 75%, e voi proponete un governo non di Grillo, perché Grillo non vuole partecipare a nessun governo, non di Monti, non di Bersani, non di Berlusconi, non di grande coalizione, il governo di Settis e Cordero, cioè gente che al massimo è riconosciuta leader da 200.000 firmatari di Micromega spinti da una campagna di Repubblica. Ma ragazzi, adesso... ma dove siamo? Ma di che stiamo a discutere stamattina? Non lo so, Flores, se... L'ineleggibilità. Vabbè, l'ineleggibilità lei non ne vuole parlare. È una cretinata però ci sono... assoluta, ho capito, però... A me sembra una cosa molto seria, visto che la dovranno comunque discutere, perché il funzionamento delle Camere parte dalle opinioni delle giunte delle elezioni, che è costretta ad affrontare i ricorsi. I ricorsi sono stati già depositati da molti elettori della circoscrizione per la quale ha optato Berlusconi, e quindi è una decisione che dovrà essere presa, non è affatto campata in aria, è assolutamente ma come è stato fatto in passato, come è stato fatto in passato ed è stata interpretata la legge. Sì, ma questa volta non potrà andare come in passato, la legge è stata interpretata per 19 anni alla azzeccagarbugli, perché questo lo capiscono tutti, basta saper leggere il testo. Questa volta c'è una maggioranza possibile diversa, e quindi se le Camere funzionano anche in attesa del governo, se questa giunta si riunisce, se non tira le cose in lungo, questa volta va diversamente. Questa volta. Però mi scusi, Flores, la mia domanda. Altro che ridere. No, ma io. Poco da ridere. No, ma io non voglio. Non voglio essere la vera realtà fra poche settimane. Flores, però io non voglio ridere, non voglio fare come Giuliano Ferrara che dice ridicolizzo questo. Però la mia domanda è questa: ma anche dovesse poi arrivare all'ineleggibilità di Berlusconi, dovesse passare qui, cioè, avete ottenuto questo obiettivo, e poi, cioè, agli italiani, sinceramente. Ma poi cambia tutto. Radicalmente tutto. Ma perché? Perché se in questo paese c'è la situazione economica tragica che c'è, e tutti sappiamo. E per l'ineleggibilità di Berlusconi. Ma certo, perché quando viene ripetuto continuamente che ci abbiamo 160 miliardi di evasione fiscale, 90 miliardi del costo della corruzione, cioè noi siamo un paese dove i soldi per affrontare la crisi ci sono. Ma mi scusi, Flores, ma la gente vuole il lavoro, le imprese vogliono i soldi della pubblica amministrazione, cioè non che non sia un problema politico l'ineleggibilità, ma scusi, è quello che le sto dicendo, appunto, i soldi per pagare tutte le imprese che non vengono pagate dalla pubblica amministrazione, addirittura per fare il salario di cittadinanza di cui parla Grillo, eccetera. Tutti questi soldi ci sono. Ma perché devono passare attraverso l'ineleggibilità di Berlusconi? È questo il punto che non capisco. Ma perché il garante di questi 160 miliardi che vengono ogni anno sprecati, cioè sottratti alla vita comune dagli evasori, i 90, dalla corruzione, eccetera. Il garante di tutto questo in questi 19 anni chi è stato? Berlusconismo e l'inciuccio. Allora, questo Ferrara, Ferrara, il problema è questo. No, Ferrara, è questo il problema. Eliminare Berlusconi in qualunque modo è il viatico per poi dare una svolta a questo paese. Finché Berlusconi, finché non ci liberiamo di questo, non. Ripeto, Flores esprime una cultura politica e una visione delle cose particolare, ovviamente rispettabile. Cioè, per lui Berlusconi è proprio l'uomo nero, cioè appunto il garante dell'evasione fiscale negli ultimi 20 anni, è il tappo tolto il quale ricomincia a fluire, diciamo, una vita buona per gli italiani, fatta di un'economia robusta. Scompare tutto se scompare Berlusconi, la crisi finanziaria internazionale, il fatto che la produttività italiana è a pezzi da 35 anni, il fatto che la spesa pubblica è in eccesso, tant'è vero che, insomma, prima di Berlusconi è stato fatto il 100% e più di debito pubblico. Berlusconi è l'elemento risolutivo, quindi è giusto che Flores si batta per colpirlo in ogni modo possibile, salvo quelli violenti, naturalmente, quindi dichiararne l'ineleggibilità, cercare di fotterlo, che ne so, fecero pure il boicottaggio della Standa, non lo so, insomma, in tutti i modi possibili. Però Flores rappresenta un punto di vista che spesso trova anche una grande eco, che arriva a riempire le piazze, per carità, non c'è spazio per tutti in una grande democrazia come la nostra, però un punto di vista di estrema minoranza. Qui c'è un'altra questione sulla quale, secondo me, bisognerebbe fermare la propria attenzione, a meno che non vogliamo passare le nostre mattine appunto a parlare della, come si chiama, ineleggibilità di Berlusconi. C'è la questione che il 75% degli italiani ha votato, e adesso lo devo dire, non soltanto per Bersani, per Berlusconi e per Monti, ma per Bersani, Berlusconi e Monti, che ancora a dicembre stavano in una stessa maggioranza, sostenevano uno stesso governo, il quale governo, a proposito di realismo, ha fatto le poche cose utili e importanti per rimettere in carreggiata questo paese ed evitargli di finire come la Grecia o come Cipro. Allora, questa è la realtà delle cose. Il 75% degli italiani ha votato per questi partiti. Ma non certo, si uni, non, c'era non, la non... campagna elettorale e questi partiti che hanno fatto? Hanno dato sfogo al peggio della loro identità. Berlusconi, il peggiore di tutti, ha proposto addirittura di restituire l'IMU, altro che ineleggibilità. Bersani ha preso le distanze da Monti, ha detto che lui faceva come Hollande, una cosa ridicola. Sì. E Monti si è barcamenato alla meno peggio nella politica, che non è il suo mestiere. Ma che c'entra? Questi sono due mesi di campagna elettorale sfrenata e ridicola, goffa, grottesca. La verità politica è quell'altra, è lì. E quel 75%. E 800 24 00 24. Vediamo se qualche ascoltatore. Anna da Roma, ascoltatrice. Anna, buongiorno. Buongiorno. Che dice? Sì, sono veramente arrabbiata. Ma Flores è matto. Di questi tempi pensa all'ineleggibilità di Berlusconi. A me mi sembra, ma non capisce che questi stanno perdendo voti perché loro hanno quel chiodo fisso, non gli frega niente la nazione. Loro mandano la nazione in rovina. Però il loro, loro adesso Flor d'Arcais che manda la nazione in rovina, non no, è, non... no, non lui. Ah, ecco. Queste persone pensano solo a Berlusconi. Ricorda quel detto che dice il marito che se lo taglia per far rispetto alla moglie. Loro pur di uccidere Berlusconi, metterlo fuori politicamente, sì, certo. Fanno qualsiasi cosa. Cioè lei dice non capisce, tra poco le risponde Flores dopo il traffico, però vorrei sentire anche Mauro da Modena. Buongiorno Mauro. Buongiorno Milan, buongiorno presenti. Io voglio che come sempre cittadino vada la mia piena solidarietà al Presidente della Repubblica Napolitano, perché secondo me ha fatto l'unica cosa che poteva fare. Sì. A questo punto, chiamando i consulenti, perché i consulenti sono quelli delle commissioni, i saggi sono quelli che hanno fatto la... Infatti anche Napolitano dice, saggi io non l'ho detto. Sì, ma infatti i giornali hanno parlato saggi, i consulenti. Questi consulenti dovranno dare dei risultati non definitivi ovviamente, E quindi? Che presenteranno al Presidente Napolitano. Napolitano secondo me avrà un'unica scelta, dovuto al fatto del marasma che si è creato. Quale? Quello, sì appunto, quello di chiamare una persona al di fuori dei politici. Ma chi? Un altro tecnico? Un altro tecnico. Ma perché non l'ha fatto subito, tecnico, mi scusi? No, non può essere un tecnico, deve essere una persona, per esempio, io vedo molto bene Stefano Rodotà. Rodotà. Lui può fare un governo. Vabbè, però Mauro, questa diciamo... voglio solo concludere. Sì. Siccome i due partiti, il PD e il 5 Stelle, hanno dei punti in comune che conosciamo tutti, quindi è inutile ripetere, hanno dei punti in comune e possono benissimo formare un governo che ha la maggioranza. Ma Mauro, mi scusi, ma cioè, sono tutte cose belle, ma il 5 Stelle gliel'ha detto in tutti i modi che non vota la fiducia a nessuno, e lei dice il PD e il Movimento 5 Stelle possono mettersi insieme. Ma certo, tutto può succedere, ma il Movimento 5 Stelle, appena Bersani apriva bocca, gli diceva vaffa, e come si possono mettere insieme? Quindi è tutto bello nel mondo di utopia, ma poi c'è la realtà. L'ultima parte di 24 mattino, sentirei anche Stefano da Roma che ci ha chiamato. Buongiorno Stefano. Buongiorno, mi sentite? Benissimo, dica. Allora, prima di tutto apprezzo molto il contenuto della conversazione di questa mattina, però vorrei dire a Ferrara che imputa a una promozione di Repubblica, di una serie editoriale, l'iniziativa di Micromega, che in realtà non è così. Io non sono una lettura di Repubblica, però 20 anni fa, di fronte a un evidente conflitto che sentivo, non in punta di diritto perché non conoscevo in realtà la legge, ho rifiutato comunque di dare il mio voto a una parte politica che aveva così forti compromissioni con concessioni pubbliche, come non l'avrei dato a Montezemolo più tardi, come a chiunque godendo di importanti interessi privati, non può secondo me fare politica serenamente. Cito solo l'esempio della pubblicità che viene fissata, la pubblicità televisiva, dalla legge finanziaria, e che nel nostro paese, tolta poi la RAI, dove in finanziaria si stabilisce qual è il suo tetto limite, va tutta in mano a qualcun altro che è fondamentalmente una sola persona. Quindi Stefano, secondo lei il tema della ineleggibilità è un tema in realtà non... Il tema è molto importante, non è secondario, perché diciamo colpisce il cuore del diritto. Vabbè, ma Stefano ha detto chiaramente la sua idea, tanto Giuliano Ferrara dice non fatemi ridere, di questa cosa non voglio parlare. Flores, se vuole rispondere, più che altro l'ascoltatrice di Roma che dice ma con tutti i problemi che abbiamo parla di ineleggibilità. E poi però la domanda che le ha fatto Ferrara, l'ha posto Ferrara, cioè il 75% di chi è andato a votare, perché c'è un 25% che non è andato, ha scelto bene o male quei tre grandi partiti, PD, PDL e meno grande Scelta Civica. Su questa cosa avevo già risposto prima. Sono tre partiti che non è che si sono scontrati per gli eccessi della campagna elettorale e non sono riusciti ad appoggiare insieme un governo, hanno incominciato a litigare già mentre appoggiavano un governo, hanno appoggiato quel governo solo totalmente obtorto collo, perché non sapevano più che pesci prendere nessuno, sono incompatibili totalmente fra di loro, quindi questa è la cosa più irrealistica di tutti, che si possano mettere insieme quelle forze. Come per la verità che è incompatibile con chiunque altro il Movimento 5 Stelle. Allora, questo invece, come ha fatto notare uno dei tre ascoltatori che ha parlato, non è così, perché il Movimento 5 Stelle ha detto di no a un governo a guida Bersani. Ma se la guida non è Bersani, ma una personalità indipendente fuori dai partiti, loro stessi hanno detto che questo sarebbe un governo a 5 Stelle, non un governo del Movimento 5 Stelle, ma un governo a 5 Stelle. Quanto all'ascoltatrice che mi dice se sono pazzo perché non mi rendo conto degli altri problemi, ma ovviamente io sono partito dagli altri problemi, qui ci sono problemi sociali gravissimi, la diseguaglianza che aumenta in modo spaventoso e i più deboli che sono sempre più deboli e maltrattati, ma tutto ciò non lo si riesce a cambiare se si continua ad affidare a coloro che sono stati la causa di questa tragedia e che sono il berlusconismo da una parte e la subalternità del PD dedita all'inciuso. Ma lei insiste su questo punto a dire, cioè il berlusconismo è la causa madre, insomma, da cui deriva tutto però mi faccia chiedere, no ma è chiaro, ma l'ha detto più volte, mi faccia chiedere questa a Giuliano Ferrara. Senta Ferrara, oggi uno dei cosiddetti saggi, Filippo Bubbico, certo fa parte del Partito Democratico, ha detto Bersani è completamente in campo. Che ne facciamo di Bersani nel congelatore? Beh, questa è un'altra questione di quelle, diciamo, la domanda delle 100 pistole. Bersani teoricamente è appunto congelato come il pesce Findus, sta lì e ha avuto l'incarico di formare il governo, però non ha trovato una maggioranza. Allora, invece di rimandarlo a casa e dare l'incarico a un altro per un governo con una formula diversa, tecnico, istituzionale, eccetera, siccome anche per quel governo lì non ci sono maggioranze in vista, Napolitano ha congelato tutto, insomma. Tra le proteste sia di Paolo Flores, sia di Bersani, sia di Berlusconi, sono tutti scontenti. Ma infatti, però, ho visto che Antonio Polito ha fatto un Twitter molto intelligente, ha detto: i partiti reclamano da Napolitano un governo subito, e lo facciano. Sì, infatti, no, non riescono a farlo, che lo può fare Napolitano? Ma che i partiti adesso si lamentino di un Napolitano quando loro non sono riusciti a risolvere una situazione è abbastanza paradossale. È una cosa assurda, no? È come dice Mario Draghi, telefonando a Giorgio Napolitano, che vivono i partiti in questo state of denial, tradotto se ne fottono della situazione, cioè vivono in questo stato di negazione della problematica. Per Flores l'esperimento Bersani è da concludere? Ma non doveva mai cominciare, perché la matematica è la matematica, era evidente che non aveva i numeri, era evidente che doveva il PD, se vuole che si faccia un governo, se rifiuta che lo si faccia con Berlusconi e hanno detto che lo rifiutano, la matematica dice che l'unica possibilità è che si faccia un governo che abbia i voti tanto del PD che del Movimento 5 Stelle. Per far questo avrebbero dovuto dire al Movimento 5 Stelle: dite voi tre nomi di personalità di cui vi fidate per un governo. Ma quello non l'hanno fatto, No. Quando il Movimento 5 Stelle è andato da Napolitano, gli chiedeva i nomi e lui dice: dateci il governo, presidente, che noi abbiamo un programma. Io su questo ho scritto infinite volte che è un errore gravissimo da parte di Grillo. Loro rispondono: non c'era in campo questa ipotesi, c'è stato proposto Bersani, abbiamo detto di no. Io penso che dovrebbe essere il PD stesso a dire, per andare a vedere: dateci voi tre nomi. E speriamo che si esca da questa impasse nell'unico modo rispettoso della volontà degli elettori che c'è, e cioè andare nella direzione di un voltar pagina radicale rispetto a questi 19 anni che sono la causa anche della tragedia economica del paese. Sentiamo Giorgio D'Alecco, l'ultimo ascoltatore, buongiorno. Buongiorno. Niente, io sarò molto sintetico perché non voglio portare via tempo. Ecco, io credo che i partiti tradizionali, con la posizione assunta da Grillo, abbiano una grandissima possibilità di potersi riproporre in modo serio, visto lo schifo che hanno fatto finora, per poter un domani ancora sperare che l'Italia possa avere sia una democrazia vera, sia la possibilità di essere... Cioè riproporsi in modo serio, che vuol dire? Fare un governo... Un governo di 5 anni, con programmi seri, gestito da PD e PDL, perché hanno le persone per poterlo fare. Io sono uno che ha votato Bersani, me ne sono pentito, perché nel momento in cui Bersani non ha vinto le primarie, al primo colpo doveva dimettersi e lasciare andare avanti Renzi. Oggi non avremmo questi problemi, perché è stata una campagna deleteria. Vista la situazione, non si può essere così irresponsabili. Lei dice si mettano al tavolo e facciano un governo, un governo delle larghe intese, come chiede Giuliano Ferrara. Ferrara, qua abbiamo concluso, abbiamo 30 secondi, ora si è ribaltato il tavolo, è più importante l'elezione del Quirinale, il governo viene dopo. Chi mettiamo al Quirinale? Lei ha un nome che... Una persona con la testa sulle spalle, insomma. Ho sentito parlare molto della rielezione di Napolitano, che certo è, insomma, la sua età e non vuole, come ha detto, fare gli straordinari alla sua età. Ci vuole una figura assimilabile, cioè un uomo di cultura politica che capisca la complessità del paese, che non dica genericamente delle cose demagogiche, che bisogna cambiare tutto, che bisogna aprire come una scatola di tonno il Parlamento, che bisogna fare... Cioè, le rivoluzioni si fanno, sono un fatto di prassi politica popolare, non possono essere annunciate al talk show della sera, quello è un modo demagogico. E se va Prodi? Quindi ci vuole un uomo che sa come è fatta l'Italia e che sa che l'Italia è percorsa da fermenti diversi. Uno di questi fermenti si chiama Setti, Scordero, Rodotà, Zagrebelsky, eccetera. Ma è una roba che riempie il Palasharp e agita delle idee importanti per riviste, per pochi. Va bene, Prodi lo vuole? No. Io Prodi? No, a me Prodi piace Paolo Prodi, storico del cristianesimo, e Franco Prodi, grandissimo astrofisico. Va bene, vi ringrazio, a domani alle 6.30. 24 mattino.